in primo piano. Buon Ferragosto! Buon Ferragosto a tutti dal sorpasso con il magnifico Vittorio Gassman. Buon Ferragosto da Elisabetta Fiorito, da Alessandro Chiappini in regia. Con noi quest'oggi ci ha raggiunto Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Buongiorno Manuela. Buongiorno e buon Ferragosto. E andiamo subito a vedere i giornali che purtroppo non parlano di un buon Ferragosto. PIL tedesco meno 0,2%, il Sole 24 Ore, Eurozona ferma, stagnazione in Francia, tengono Spagna e Portogallo, Renzi, ora il caso è l'Europa. Corriere della Sera, ora tutta l'Europa è in frenata, si ferma anche la Germania, Renzi, non c'è solo un caso Italia. Repubblica, la Germania si ferma, Renzi, non siamo noi il problema della UE. In calo il PIL di Berlino, crescita zero anche in Francia. Il Messaggero, PIL frena anche la Germania, cala l'export, indice tedesco in flessione come l'Italia, meno 0,2%, crescita zero per la Francia, Renzi, Europa in stagnazione. Merkel caput, questo è il titolo del giornale, anche i ricchi piangono, la cancelliera fa autogol, l'economia tedesca è sull'orlo della recessione. Pace nella giustizia è il titolo di Avvenire. Non possiamo tacere, nelle chiese d'Italia si prega perché finisca la persecuzione jihadista. La Padania, effetto Renzi, si vede su una panchina dei clochard che sono Angela Merkel e a Hollande. L'Italia riparte con te, questa è la Gazzetta dello Sport, accordo raggiunto, grazie allo sponsor si comincia col 3-5-2, questo è praticamente il nuovo CT Conte della Nazionale. La Stampa. Eurozona crescita zero, Germania e Francia soffrono, Renzi non stiamo peggio degli altri. Libero, anche i crucchi fanno crack, l'economia tedesca si pianta, crescita negativa, male pure la Francia. Il nostro premier gongola, tutta l'Europa in crisi, ma c'è poco da ridere. Euro zero, il titolo del manifesto, non c'è verso, l'Europa si ferma, l'Eurostat, il barometro statistico europeo, segna crescita 0,0. Il Fatto Quotidiano, l'ultimo dei nostri giornali di oggi, la Merkel perde colpi e Renzi si consola con gli U2. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein, diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein, guten Morgen. E questa canzone che la scorsa settimana abbiamo dedicato al premier Matteo Renzi, quest'oggi la dedichiamo alla cancelliera tedesca Angela Merkel. Ricordo il numero per i vostri sms 349-238-6666. Leggiamo allora l'inizio proprio del Sole 24 Ore. Nuovi segnali di difficoltà per l'economia europea nel secondo trimestre 2014. Il PIL dell'Eurozona è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente, mentre registra una crescita dello 0,7% su base annua. Sul risultato dell'Eurozona, alle prese con un netto calo degli investimenti, pesa la frenata della Germania, che ha visto il PIL calare dello 0,2%. Secondo trimestre consecutivo di crescita zero per la Francia, il premier italiano Renzi sottolinea che non c'è un caso Italia e tutta l'Europa in stagnazione. Preoccupa anche il calo dei prezzi. Contro il rischio deflazione aumentano le pressioni per un piano BCE di acquisto degli asset in autunno. Allora chiediamo subito a Manuela Perrone, in studio con noi del Sole 24 Ore, erano attesi questi dati? Sì, erano attesi, forse il dato della Germania non era atteso nella misura in cui poi è arrivato, però era stato ampiamente anticipato dalla corsa all'acquisto dei bund decennali. Due giorni fa ne sono stati collocati 3,3 miliardi. Perché la corsa? Perché gli investitori comprano per proteggersi proprio dal rischio geopolitico, dal rischio di recessione. Moria Longo sul Sole 24 Ore di ieri aveva proprio definito questa corsa al Bund come la corsa ad accaparrarsi la polizza assicurativa d'Europa. Allora, un radioascoltatore subito ci scrive, giustamente, lo stop della Germania esalta Renzi che si autoassolve. La verità è noi non siamo mai ripartiti e ora la situazione peggiora, non c'è niente da gongolare. Leggiamo l'editoriale sul Sole 24 Ore di Carlo Bastisin. Negli ultimi 7 anni, per 6 volte gli europei hanno previsto una crescita maggiore di quella poi realizzata. Si dice che gli ottimisti vivano più felici, ma evidentemente in economia non funziona. Tra il 2008 e oggi la perdita di reddito dell'euro area rispetto agli USA è pari all'8% del PIL e molti milioni di posti di lavoro sono andati perduti. Dopo i dati di ieri, la revisione di quest'anno sarà tra le più ampie. Evidentemente ci illudiamo o vogliamo evitare misure eccezionali. Inoltre siamo abituati a utilizzare modelli che non colgono le interdipendenze economiche e le incertezze politiche nell'euro area. Ad esse infatti sono legate la debolezza degli investimenti e dell'export che stanno frenando tutte le maggiori economie dell'euro area. E quindi qui vediamo proprio, attenzione, quello che diceva il radioascoltatore, a gongolare, perché quello che ci è sembrato anche, no, che Renzi dice va bene, il problema non è italiano, Manuela, e allora ora possiamo un po' rilassarci. Renzi si è preso una piccola rivincita dopo giorni e giorni in cui l'Italia era di nuovo additata come la Cenerentola d'Europa. Se l'è presa, poi ha anche precisato durante la sua maratona di ieri al Sud che in realtà in questo caso mal comune non è mezzo gaudio, quindi ha ridimensionato questa rivincita. Va detto che è assolutamente vero che ha pesato sulla stagnazione dell'intera eurozona il calo degli investimenti e il calo dell'export e che sicuramente le crisi che sono alle porte d'Europa, quindi la crisi, in particolare la crisi in Ucraina, hanno inciso e hanno inciso anche sulla situazione sull'export tedesco, per esempio, che tradizionalmente è fortissimo. Oltretutto segnalo un editoriale di Sergio Lepri sulla Stampa. Mal comune mezzo gaudio? Purtroppo no, perché l'economia tedesca, scrive Lepri, è molto diversa dalla nostra e il prodotto lordo del secondo trimestre negativo li fa indicare rimedi assai diversi da quelli più popolari in Italia. Tuttavia l'occasione può essere colta per un'azione comune. I dati di ieri mostrano logore consunte le ricette sia degli uni che degli altri. Guai a intestardirsi, guai a cercare certezze nel passato. Siamo in una situazione nuova dove il declino dell'Europa tutta, non solo dell'area euro, è assai verosimile prospettiva. L'area dell'euro soffre maggiormente perché, avendo con la moneta unica fatto una scommessa più ardita, ha trovato maggiori difficoltà a proseguirla nella crisi mondiale ancora in corso. Ecco, quindi dice Lepri, attenzione a rilassarsi, Manuela. Ma ora, perché sta frenando questa economia tedesca? Cioè, che cosa si imputa al freno di questa, del motore, poi, della locomotiva d'Europa? Tutti gli osservatori oggi, tutti i giornali lo riportano, mettono in luce come in realtà ci siano stati due elementi congiunturali che hanno inciso sul PIL tedesco, e cioè i tanti ponti festivi che hanno ridotto l'attività e la penalizzazione del settore delle costruzioni legata a un inverno mite che ha fatto anticipare alcune iniziative. Detto questo, come ricordavo prima, è indubbio che abbia pesato anche un calo degli investimenti e un calo dell'export, ed è indubbio che abbiano pesato le crisi e anche le sanzioni europee alla Russia. La Germania si sta già muovendo, tentando di aumentare la domanda interna attraverso per esempio contrattazioni che spingano i salari verso l'alto. Non è un caso che ieri Renzi in uno dei passaggi da Napoli abbia detto attenzione, perché la crescita non è tagliare i salari. Un punto individuale individuato, cruciale individuato dalla banca centrale, è quello di procedere con il risanamento senza però condizionare l'espansione, quindi senza ulteriormente penalizzare la domanda. Anche perché se si tagliano i salari poi la gente non ha più soldi da spendere, l'economia non riparte, no? E tanto più pericoloso in una spirale di deflazione che sulla quale insomma c'è da effettivamente da temere. Allora segnalo Danilo Taino sul Corriere della Sera che parla i numeri dell'erosclerosi: se il 7% della popolazione brucia il 50% del welfare, corrono solo le economie dei paesi emergenti e degli Stati Uniti. Da anni Angela Merkel tiene in tasca un foglietto con tre statistiche che cita in continuazione. Le permettono di inquadrare la posizione dell'Europa nel mondo. Il continente ha il 7% della popolazione, il 25% del prodotto lordo, il 50% delle spese per welfare state. E poi dicono: la popolazione europea tende ad avere un peso sempre minore rispetto a quella mondiale perché gli europei fanno decisamente pochi figli. Germania e Italia sono i casi più acuti. La stagnazione farà diminuire dal 25% di oggi anche la quota del PIL prodotto e chiaramente la generosità insufficiente del welfare state europeo, il 50% delle spese mondiali per il 7% della popolazione, non può essere sostenuta ed è un elemento che pesa sulla competitività. I paesi emergenti infatti tendono ad aumentare la spesa per la sicurezza sociale, ma non illudiamoci che lo facciano a scapito della loro capacità concorrenziale. Scrive Danilo Taino, è un circolo vizioso. Ecco, qui poi ci sarebbe da aprire, approfitto della tua presenza, che ti sei occupata e ti occupi anche di sanità, certo. Insomma, ci sarebbe da aprire un capitolo enorme sull'assenza di asili in Italia, sulle agevolazioni per le mamme, che fanno sì perché che la nostra crescita demografica sia sempre negativo o sia pari a zero, anzi è negativo. Certo, tutto si tiene, infatti la situazione del welfare è una situazione esplosiva, ma è una situazione, e la spesa per la protezione sociale in generale è una mina vagante, perché da un lato aumenta la spesa pensionistica e dall'altro aumenta la domanda di servizi sanitari e assistenziali. Devo dire che nello stesso articolo che tu stavi citando si dice che una delle soluzioni potrebbe essere quella mutuata dai paesi nordici, che sono riusciti ad abbassare le tasse senza però tagliare la spesa sociale, perché i tagli alla spesa sociale comportano sempre il rischio di una ulteriore contrazione della lavoro femminile e quindi dell'occupazione e dei consumi. Allora, un radioascoltatore fotografa una situazione che secondo me è esatta con una metafora. Il fatto è che la Germania è il raffreddore mentre noi abbiamo la polmonite. Come dargli torto? Un altro radioascoltatore ci dice: siamo sicuri che sia così drammatico questo stop tedesco? Davvero a livello mondiale dobbiamo crescere ancora? Io credo che guadagniamo di più da una frenata. Va bene, un radioascoltatore che crede magari meglio la decrescita felice. Allora, segnalo però delle interviste, una su Repubblica riguardo a questo tema, una intervista all'economista tedesco Gross: la BCE non può fare di più, ora la Germania faccia le riforme, quindi anche la Germania deve fare le riforme. Anche un'intervista sul Messaggero a Xavier Thibault: allentare il patto di stabilità o sarà una vera catastrofe? Più flessibilità nel patto di stabilità sarà inevitabile per aiutare i governi a rilanciare l'economia. Resta da vedere se la flessibilità porterà a una crisi politica grave in Europa. Ecco, davanti alle cifre dell'Eurozona, Xavier Thibault, direttore del Dipartimento Analisi e Previsioni dell'Osservatore francese delle congiunture economiche, ha pochi dubbi. In queste condizioni, rispettare i criteri del patto di stabilità può provocare catastrofi, soprattutto in Francia. Molte critiche si fanno, e per questo anche i giornali, abbiamo visto, di centrodestra un po' gongolano sul fatto che la Merkel sia in difficoltà proprio per questo patto di stabilità che oramai viene considerato troppo rigido in un'economia che stenta a ripartire. Qui c'è sempre un po' la disputa tra i neo-keynesiani, se vogliamo dirla a livello economico, no? E i conservatori e i liberisti. Allora, cosa però bisogna fare? C'è quello che stava scrivendo il Sole 24 Ore, che ripete anche il Messaggero: l'arma finale della BCE è l'acquisto di titoli pubblici. Cioè, che cosa farà Mario Draghi? A settembre partiranno le aste per fornire liquidità a tassi di favore agli istituti di credito, ma il mercato scommette su misure più incisive come quelle usate da Fed e Giappone. Allora, che cosa vuol dire, Emanuela? Vuol dire che da settembre partiranno le annunciate operazioni mirate di rifinanziamento, cioè praticamente prestiti condizionati alla concessione di prestiti alle famiglie e alle imprese. La BCE prende tempo, è chiaro che la pressione perché venga adottato perché si ricorra al quantitative easing, e cioè all'acquisto sul mercato di titoli cartolarizzati, quindi non solo titoli di Stato, per immettere liquidità nel sistema, è sempre più forte. Altre misure dato aspettarsi altre rivoluzioni. Non ci saranno euro bond, non ne abbiamo parlato, non è in programma. E torniamo a parlare appunto del rallentamento dell'economia tedesca. Leggiamo a questo proposito un editoriale di Alessandro Sallusti sul giornale da sempre poco tenero con Angela Merkel. La maestrina Merkel finisce dietro la lavagna, la sua scellerata visione dell'economia europea sta inguaiando anche la locomotiva tedesca. Per il secondo trimestre consecutivo il PIL della Germania non cresce, il paese è sull'orlo della recessione, idem sta accadendo in Francia. È la prova che il problema non è l'Italia, pure malconcia di sua, ma l'architettura monetaria ed economica pattuita in tempi nonostante recenti appaiono oggi appartenere ad un'altra era. Tanto è cambiato nel frattempo il mondo. Altra prova: l'unico paese del vecchio continente a crescere in modo significativo è l'Inghilterra, il solo che non ha adottato l'euro e che ha quindi il pieno controllo della sua moneta e delle sue scelte in economia. Ecco, parliamo con Manuela Perrone del Sole 24 Ore. La cosa che è anche una critica che si fa sempre, c'è stata questa intromissione del presidente della BCE Mario Draghi, no? Sul fatto che le riforme vanno fatte, altrimenti ci potrebbe essere un controllo da parte della BCE. Ecco, molta parte dell'elettorato, soprattutto di centrodestra, è contrario a questa burocrazia europea che tende a governare l'Italia, e questo è anche uno dei cavalli di battaglia di Farage, che è il leader dello UKIP, ricordiamo, insieme a Beppe Grillo è coalizzato nel Parlamento europeo. E questa è una critica, cioè alla fine si andrà verso una perdita di sovranità dei paesi europei perché saremo tutti controllati dalla BCE, Emanuela? Ma dipende da quello che vorremmo fare dell'Europa. In realtà la cessione di sovranità che era stata ipotizzata da Mario Draghi era un invito probabilmente a correre sulla strada delle riforme, tant'è che poi è stata ridimensionata. Matteo Renzi ha interpretato in maniera brusca l'invito dicendo le riforme le decido io, non la troica né la BCE, e l'equilibrio è stato ristabilito anche probabilmente grazie all'incontro segreto che c'è stato a Città della Pieve tra il governatore della BCE e il nostro premier. Il futuro dell'Europa economica dipenderà, per ora è un'Europa monetaria, dipenderà da quello che vogliamo fare dell'Europa anche sul piano politico, per cui questo semestre di presidenza e le prossime mosse anche dell'Italia. Ieri Renzi, ricordiamolo, ha detto che ha rivendicato il ruolo dell'Italia come leader nella ripresa dell'intera Europa. Eurozona. Sì, è andato un po' fuori di testa, cioè è sembrato un pochino esagerato. Ecco, ha diciamo un'idea così diversa dell'Europa politica. Vabbè, però insomma, il fatto che l'Italia possa trascinare l'Europa fuori dalla crisi, magari qualche idea italiana sì, no, ci è sembrato un po' esagerato, tutti quanti i giornalisti politici sono saltati sulla sedia. Però leggiamo i nostri radioascoltatori, un radioascoltatore molto critico dice: crogiolarsi compiaciuto nel dare cattive notizie, ma noi italiani ce la caveremo sempre in quanto inventori dell'arte di arrangiarsi, ci scrive Roberto. Assolutamente non siamo né compiaciuti né ci crogioliamo, siamo molto preoccupati. Il tono è quello di preoccupazione e di una leggera ironia per vedere come uscire da questa crisi, ma questo che mi fa piacere è la seconda parte proprio del messaggio: ce la caveremo sempre in quanto inventori dell'arte di arrangiarsi. Ecco, forse Matteo Renzi un po' voleva dire questo. Però intanto Matteo Renzi ieri, parlando di politica, ha avuto un endorsement che non ci aspettavamo, ed è l'endorsement di Bono degli O2. Allora, leggiamo il Fatto Quotidiano. Gianluca Rosselli dice: caro Matteo, con una T, inizia proprio così, con il nome sbagliato alla lettera di Bono Vox, il cantante degli O2, a Renzi. Un messaggio di plauso e sostegno, anzi un vero endorsement. Una breve nota per congratularmi con te per aver consolidato gli italiani intorno alla propria grande creatività e a una visione del futuro che include tutti. Siamo orgogliosi di vedere una delle nostre nazioni preferite avere la leadership che merita, recita il testo, e ha fatto arrabbiare però tantissimi fans italiani. Questo endorsement, questo bacio di Bono Vox a Matteo Renzi. Perché secondo ma te? Ma non poteva capitare in un momento migliore, no? In un momento in cui Renzi è travolto da temi lontani dal pubblico giovanile, no? Dall'appunto economia, le riforme, l'austerity, è arrivata una ventata pop nella nell'agenda del premier. Quindi immagino la rabbia di alcuni fan. Magari che hanno votato altri partiti, magari, che pensano che il PD sia la stagnazione, però vabbè, insomma, è stato un endorsement particolare. Però ricordiamo, Bono Vox era anche amico di Walter Veltroni, quindi si è sempre schierato a favore del Partito Democratico. Allora, per riguardo agli altri partiti, dobbiamo dire che intanto c'è questo giallo estivo sull'alleanza possibile per l'economia, su Berlusconi, e Berlusconi dice: avverte Matteo Renzi, vuole fare da solo, si accomodi. Questo è un retroscena di Adalberto Signore sul Giornale. Tre ore di faccia a faccia mercoledì sera con Galliani, Inzaghi e con Falonieri per ragionare sul futuro del Milan. Ma ieri il consueto giro di telefonate per capire come tira il vento di questo Ferragosto, che per molti versi ricorda l'estate di 3 anni fa, quella dello spread alle stelle, che poi sfociò nella caduta dell'ultimo governo Berlusconi. L'ex premier è convinto che le similitudini col 2011 siano moltissime, forse troppe, e lui, a quanto si è capito in questi giorni, anche dopo l'assoluzione al processo Rubbi, vorrebbe dare una mano, anche se respinge l'ipotesi di entrare in maggioranza. E è stupito per la freddezza del Colle di Palazzo Chigi. Secondo te poi si arriverà a una grossa coalizione sulle riforme economiche da fare per il paese? Sappiamo che quest'estate c'è di nuovo il tormentone dell'articolo 18, insomma vediamo agitarsi il nuovo centrodestra, però anche Forza Italia poi ha delle battaglie economiche molto simili. Sull'articolo 18 mi sembra che le cose siano rientrate, se ne riparlerà a settembre con l'esame della delega lavoro in commissione lavoro al Senato. Renzi ha aperto a modifiche sullo statuto dei lavoratori, ma non alla cancellazione delle garanzie. Io credo che una soluzione sarà trovata nell'ambito di quel contratto a protezione crescente di cui molto si è discusso nell'ultimo anno. Il pressing di Forza Italia per la partecipazione alle riforme economiche è finora stato respinto da Renzi. Vedremo di quale tipo di maggioranza Renzi potrà contare in autunno, perché poi i nodi verranno al pettine con la legge di stabilità. Segnalo anche su Libero la lettera di Corrado Passera a Maurizio Belpietro, che si candida come possibile leader del centrodestra. Ecco, Corrado Passera è un po' che ci prova, no? C'è un vuoto nell'elettorato di centrodestra, magari Berlusconi oramai è stanco, è anziano, vorrebbe passare il testimone, e lui si candida come possibile testimone, come possibile successore di Silvio Berlusconi. È credibile un personaggio che poi però ha fatto anche parte del governo Monti? Ma che sia credibile, immagino di sì. Vedo poco credibile Passera nell'immediato alla guida del centrodestra, anche perché mi sembra che Berlusconi sia tornato in campo alla grande. E segnalo a questo proposito, sempre sul Libero, una riflessione di Pier Ferdinando Casini: il centrodestra va rifatto, ma senza il cavaliere non si può. Esatto. Casini si pensiona: nell'UDC ho dato dissidi con Berlusconi, ma la legittimazione la danno gli elettori, giusta la lista con Alfano, ora via alla costituente popolare. Insomma, c'è un po' da ricostruire questo centrodestra, però a quanto dice Casini non si va oltre Berlusconi, questo è un po' l'impasse. Ma ricordiamoci che subito dopo la sentenza che lo ha tra virgolette riabilitato, Berlusconi ha immediatamente cercato sponde nel nuovo centrodestra per ricostruire una grande alleanza di centrodestra. È un progetto che è ancora in piedi, anche se il nuovo centrodestra finora lo ha respinto. Anche lì dovremo aspettare probabilmente il prossimo anno per vedere quali grandi manovre si svolgeranno nel centrodestra. Ecco, Maurizio Belpietro poi risponde a questa lettera di Corrado Passera sul Libero: Berlusconi sta a Correnzi, a settembre darò la scalata al centrodestra. Queste le parole di Corrado Passera. Caro Passera, confesso che ammiro il suo entusiasmo. Sappiamo che Maurizio Belpietro non fa molti sconti. Allora, parliamo anche di quello che va fatto nel nostro paese, perché ricordiamo che la situazione comunque va cambiata. Segnalo sempre sul Sole 24 Ore la nostra infaticabile Isabella Bufacchi, che continua a scrivere su come si può abbattere il debito pubblico. Anche oggi ci illustra: maneggiare con cura, c'è gioco la credibilità del paese, non si può proprio dire che la coperta sia corta quando si lavora su un'operazione taglia debito degna di questo nome. Un intervento, un attantum risolutivo di riduzione dello stock del debito pubblico italiano deve rimuovere qualche centinaio di miliardi di euro affinché ne valga veramente la pena. Ecco, sappiamo che il Sole 24 Ore ha dato una ricetta per tagliare il debito. La prima cosa da fare sono le privatizzazioni, poi. Sì, le privatizzazioni, che non riguardano soltanto, almeno nelle proposte del Sole, le privatizzazioni degli le dismissioni degli immobili, ma anche un vero riordino delle municipalizzate. Le tre proposte del Sole sono state rilanciate ieri, erano state proposte inizialmente a marzo, e sono tre mosse da 200 miliardi per riportare il debito arrivato al record di 2.100 miliardi, ricordiamolo, per riportarlo sotto il 100%. Oggi Isabella Bufacchi torna sulle proposte e analizza quali possono essere però i rischi e quali sono i margini per appunto effettuare questi tre interventi in Italia. Allora, segnalo sul Messaggero: stretta sulla sanità, subito risparmi per 600 milioni, il Tesoro studia tagli e razionalizzazioni, giro di vite sui ricoveri facili e le forniture, archivio unico online delle cartelle cliniche e delle analisi, il 70% delle regioni è in ritardo. E segnalo anche un simpatico retroscena di Francesco Bei su Repubblica riguardo proprio a Matteo Renzi: questo ammorbidirà un po' la signora al prossimo Consiglio europeo, ne vedremo delle belle, avrebbe detto tornando a Roma dopo un tour massacrante al sud con 4 ministri. Matteo Renzi può riflettere con calma sul dato più importante della giornata, la frenata tedesca, ora certifica con il timbro ufficiale dell'Istituto di Statistica di Berlino. Certo, per le aziende italiane che esportano in Germania si tratta di una brutta notizia, ma per un premier impegnato nella scommessa di far impossibile di far cambiare verso all'Unione Europea, costringendo la signora Angela Merkel a trattare su flessibilità, il vantaggio è evidente. Finalmente, confida Renzi ai collaboratori, potremmo dimostrare che l'Italia non è la pecora nera del continente, che i problemi sono comuni a tutta l'Eurozona perché sono sbagliate le politiche condotte fino ad ora. E poi c'è un rammarico per la fretta dell'Istat. Il dato del PIL tedesco lo sapevo da settimane, se solo il nostro Istat non avesse fatto per il primo della classe, cioè i dati della crescita, della recessione tecnica italiana dati una settimana prima. Vabbè. Allora leggiamo i nostri SMS, dicono che la prossima lettera la riceverà dall'Arcangelo Gabriele, quella chiaramente di Corrado Passera sul Libero. Che noia, che barba, che noia, la Germania sull'orlo del baratro, più la mandi giù più ti tiri su, che occasione per i parolai. Quando torna il Milan, saluti e buon Ferragosto, Albano da Trieste. E non ci sono alternative invece, dice Max da Pinerolo, gli stati devono ritirarsi dalla vita dei cittadini e delle imprese. E noi apriamo la pagina di Esseri perché i neri sono in rivolta. Obama critica la polizia, sale la tensione razziale in Missouri per la morte del giovane ucciso da un agente. Ancora scontri nel sobborgo di Ferguson. Il presidente statunitense in TV invita la calma. Non ci sono scuse per un uso eccessivo della forza contro pacifici manifestanti. E noi vogliamo però ricordare qualcuno che ha combattuto sempre per i diritti e per uguali diritti negli Stati Uniti e poi nel mondo. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. E lo riconoscerete subito, è Martin Luther King. Molti anni sono passati da quella I Have a Dream, però purtroppo negli Stati Uniti le tensioni razziali molto spesso risorgono. Segnalo a questo proposito Federico Rampini sulla prima pagina di Repubblica: Obama attacca la polizia, verità sul ragazzo ucciso, non c'è scusa se la polizia usa una forza eccessiva contro dei manifestanti pacifici, se sbatte in carcere chi protesta esercitando un diritto costituzionale. Obama interviene duramente per spegnere l'incendio delle proteste razziali che divampano da una settimana a Ferguson, sobborgo di St. Louis. Manuela Perrone qui con noi. Insomma, da quella Have a Dream certe volte sembra che non sia passato troppo tempo, purtroppo, malgrado un presidente afroamericano alla Casa Bianca. Io, al di là di questo episodio, ricorderei due fattori che pesano. Il primo è la geografia di Ferguson, sobborgo di St. Louis, ne siamo nel Missouri. A Ferguson vivono 21.000 persone che sono per oltre due terzi afroamericani, ma su 53 poliziotti solo 3 sono di colore e su 6 consiglieri comunali soltanto uno è afroamericano. Io credo che quando ci sono questi evidenti squilibri di rappresentanza, le tensioni sono inevitabili. Il secondo problema lo metteva in risalto Marco Valsagna sul Sole 24 Ore di ieri: c'è un problema di ordine pubblico, perché la polizia è armata fino ai denti e in generale negli Stati Uniti le forze dell'ordine hanno ereditato i vari arsenali dalla guerra in Iraq. Allora, a proposito dell'Iraq, segnaliamo subito il nostro Alberto Negri sul Sole 24 Ore: USA prudenti e il califfo ringrazia. Se gli Stati Uniti pensano di fermare il califfato con qualche raid aereo e gli aiuti militari ai peshmerga curdi, si sbagliano. È come curare il cancro con l'aspirina, perché lo Stato Islamico IS ha una strategia: unire i sunniti dell'Iraq e quelli della Siria, mentre l'Occidente si trincera dietro la consueta ipocrisia mascherando clamorosi errori di valutazione. Segnalo anche Hamas perde i suoi alleati contro la tregua degli anti-jihad di Bernardo Valli da Gerusalemme. La terza guerra in 5 anni tra Gaza e Israele si svolge in una realtà completamente mutata. Ora nei paesi arabi, a partire dal regime militare del Cairo, prevale la paura per l'Islam radicale, e così si è arrivati ad un nuovo cessate il fuoco che noi speriamo continui. Rotto l'assedio, scrive La Stampa, Maurizio Molinari, migliaia di yazidi in salvo, i Marines aprono i corridoi, il Pentagono: non servono altri soldati, al-Maliki cede il posto al rivale. Qui siamo ovviamente in Iraq. Poi segnalo sempre sulla Stampa: basi in territorio turco, soldi sauditi, così l'ISIS ha costruito il suo esercito. Erdogan sotto accusa, avrebbe tollerato il gruppo per sfruttare il caos iracheno. Quanti tifosi dei tagliagole vivono in mezzo a noi, se lo chiede un'inchiesta del Giornale. Scattano foto di cartelli con minacce in arabo davanti al Colosseo, non solo invasati pronti a combattere in Siria, tanti abitano in Occidente ma sostengono il califfato. C'è questo allarme. Poi segnalo sempre sul Corriere della Sera un bellissimo reportage di Lorenzo Cremonesi: Bushra e le donne rubate si sono presi la mia vita. Nel campo ONU degli sfollati yazidi, il racconto della fuga e la ricerca dei rapiti. L'ISIS conferma: abbiamo in ostaggio 100 tra adulti e bambini. Quindi insomma anche qui la Casa Bianca invece esclude su truppe sul terreno, Maliki cede e si ritira. Poi invece cominciamo a parlare di argomenti, visto che è un po' Ferragosto, di cosa fare durante queste vacanze o questo weekend, magari per chi è rimasto in città si va al mare. Allora, intanto da segnalare un articolo sul Messaggero: l'Italia non è più il paese del turismo, presto ci supererà anche la Turchia. La penisola è solo al 5° posto quanto ad affluenza, entro 3 anni potrebbe scendere ancora, l'allarme degli operatori. Francia, Stati Uniti, Spagna e Cina, e solo al 5° posto l'Italia, il bel paese agli occhi dei turisti sembra non essere più così bello. L'uscita dal podio delle mete predilette, che in passato era parsa un'eccezione, si conferma regola nel rapporto 2014 del World Tourism Organization. L'Italia piace meno, a giudicare dai dati. Se la Francia registra 84,7 milioni di visitatori con un aumento del 2% sul 2012, in Italia la quota scende a 47,7 milioni, in crescita dello 0,3%. Manuela, perché il nostro paese è poco accogliente, troppo caro? Perché, essendo il paese che detiene l'80% delle opere d'arte al mondo, non riusciamo a essere al primo posto come dovremmo? Per l'antico problema del fatto che non riusciamo a valorizzare il nostro patrimonio. È il problema sul quale gli Stati Generali della Cultura dedicano, il Sole 24 Ore dedica agli Stati Generali della Cultura, ed è un problema che richiede una visione di sistema che coinvolga le soprintendenze, che coinvolga il ministero, che coinvolga il sistema museale, una visione di sistema che purtroppo ancora non si vede. Allora, un nostro radioascoltatore ci dice che noi difendiamo Renzi a tutti i costi, noi cerchiamo semplicemente, anzi siamo state anche, vorremmo vedere ancora di più, fare qualcosa di più per il nostro paese. Poi Che mal comune è mezzo gaudio, ci scrive un altro radioascoltatore, non è un pensiero da grande statista riguardo a Renzi. È vero. Detto che no, mal comune non è mezzo gaudio. Non è mezzo gaudio. Non è mezzo gaudio. Però un pochino poi era felice del fatto che anche la Germania è in difficoltà, perché dal suo punto di vista questo potrebbe far rallentare questo famoso parametro del 3%. È una carta in più che può giocare il 30 agosto anche per le nomine. Per le nomine, ecco, a proposito poi della politica estera, abbiamo anche il Consiglio europeo oggi perché abbiamo il Consiglio. Scusa, ti interrompo prima di darti, in questo contesto economico, scrive Amedeo, che senso hanno le sanzioni economiche contro la Russia? E oggi si riunisce l'Europa, no? Oggi si riuniscono i ministri degli esteri dell'Europa 28 e in agenda hanno temi non facili, cioè Iraq, Ucraina, Gaza e anche probabilmente la minaccia del virus Ebola. Temi non facili perché le posizioni sono variegate, perché finora l'unica arma che è stata concordata è l'invio degli aiuti umanitari. Vedremo in che direzione si andrà, soprattutto per il conflitto in Ucraina. Probabilmente ci sarà un nuovo richiamo al ritiro della Russia, ma sappiamo che geoeconomicamente i rapporti con la Russia sono importanti. Allora, l'intramontabile tramonto dei libri è l'apertura del Foglio quotidiano in questo giorno di Ferragosto. Scrive Alfonso Berardinelli: leggere non è esattamente andare a caccia di informazioni, navigare, qualunque sia il supporto, la carta o l'ebook. Passeggiata sul destino dei libri e altri destini, sulle orme non romantiche di un boss dell'editoria. Ecco, questa crisi del libro è dovuta all'ebook oppure è dovuta perché la gente legge poco? In Italia legge poco. Legge poco, ma tu leggerai, che libro leggerai sotto l'ombrellone? Io leggerò i libri di carta. I libri di carta e in particolare? Ma rileggo La storia d'Italia di Montanelli. Allora, perché che molto, mi serve. È che è molto divertente. Ecco, per esempio, La storia d'Italia di Montanelli, io ricordo il capitolo su Lucrezia Borgia, che penso che sia uno dei capitoli più spassosi. Però attenzione, con spasso lui poi insegnava la storia, non è che fosse tutto così. E anche sulla stampa segnalo un'intervista a Banana Yoshimoto, che è una affermata scrittrice giapponese che presenta il suo libro edito da Feltrinelli, ma ci sono su tutti i giornali richiami al libro. Andromeda Heights, la scrittrice giapponese, racconta di una ragazzina cresciuta da una nonna guaritrice, ho riscoperto il tesoro dei riti, una porta aperta sull'infinito. Invece una cosa di cultura alta, la grande lezione di Karajan, Riccardo Muti dirige oggi a Salisburgo i Wiener Filarmonica nel concerto commemorativo dei 25 anni dalla morte del maestro, l'appuntamento sinfonico più atteso del festival, e noi siamo orgogliosi che sia Muti a farlo. E di letture da spiaggia, ma non troppo, Panorama, penso positivo, nonostante tutto sono tempi difficili, inutili negarlo, che inducono a scoraggiarci, ma l'ottimismo aiuta a stare meglio, fa bene alla salute, si può imparare, ecco i consigli dei medici e psicologi. Segnalo l'editoriale di Beppe Severgnini sul Corriere della Sera, su Ferragosto, l'Espresso, l'inafferrabile boss dei boss, e soprattutto su chi, lasciatemi chiudere con una cosa stupida, l'articolo di Francesca Pascale, che dice: non vivo senza Silvio. Ringrazio Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Io vi saluto, ci ritroveremo a settembre da Montecitorio. Passo il testimone a Gianfranco Fabi la prossima settimana, e linea IGR è ad Irene Zerbini. Un buon Ferragosto da Elisabetta Fiorito.